ad alta voce. Maria Paiato legge Il Comunista di Guido Morselli. Undicesima puntata. Amoruso non era guarito dall'influenza, ma si alzò lo stesso a ricevere gli ospiti. Oltre a Ferranini c'era, con la moglie, l'onorevole Pieraccini, socialista, e uno studente che si laureava in storia del teatro a Napoli, venuto a farsi prestare certi volumi della raccolta di Amoruso. Ferranini si sentì un po' a disagio, lui che si preparava a chiedere in prestito un completo blu. Amoruso, borghese convertito. Uno degli ircocervi si autodefiniva, nati dallo sforzo di coniugare la lotta di classe con il pluriclassismo. La casa dove gli Amoruso vivevano da un paio d'anni a Formia, invece, non si era convertita. Elegante senza sfoggio, al pian terreno l'unico grande locale faceva da studio, libreria, salotto e vestibolo, era una casa specificamente borghese. Lo era persino nella sprezzatura di quella eleganza, di stile rustico sportivo, non tanto per solfeggiare i canoni di House and Garden, quanto in accordo al garbato empirismo della sua padrona. Adele Amoruso Cariboni, che ci tornava ogni sera a costo di disertare una votazione al Senato, dove sedeva per il PSI da due legislature, ripeteva volentieri che mobili e libri, tappeti e quadri sono come le scarpe, sempre belle quando riescono comode a chi le ha indosso. Ferranini era già stato lì varie volte. Il pomeriggio, le raffiche di libeccio cacciavano la pioggia contro i vetri a ondate, passò piacevole per gli amici che conversavano nella bella casa tiepida dalle luci smorzate. In veste da camera e pantofole, Antonio Amoruso combatteva il virus dell'asiatica a bicchieri di Slivovitz e soda e passava in rivista, dalla sua poltrona, la scena politica, assistito blandamente da Ferranini, che si lasciava impigrire, e dal compagno Pieraccini. Fu un accenno di quest'ultimo a spostare il discorso verso la teoria. La signora Pieraccini, con quella gelosia comune e patetica quanto fastidiosa per l'uomo che ne è l'oggetto, si lamentava che suo marito avesse troppi impegni, non fosse mai disponibile per la famiglia. Lavora persino il 1° maggio. Il marito osservò che poteva essere spiegabile far festa per Natale, mentre la festa del lavoro è logico che si solennizzi lavorando. Aveva l'aria di scusarsi della battuta un po' frusta, ma Amoruso ci trovò da obiettare. «Eh no, caro mio, il 1° maggio non è la celebrazione del lavoro, è una celebrazione contro il lavoro e difatti la si attua con l'astensione, dappertutto, URSS compresa. È un po' come io intendo la commemorazione dei defunti, in onore dei morti, ma non certo in onore e lode del dover morire». Il 1° maggio serve a ricordare che il lavoro è una mortale fatalità. In fondo tutti la sentono così, senza dirselo. E questo spiega la diffusione mondiale del rito. Si capisce che parlo del lavoro dei lavoratori. Il mio e il tuo sono studio, invenzione, decisione. Non c'è la maledizione dell'elemento iterativo, non è lavoro. L'altro lo guardava sorpreso. «Fatto sta», ammise Pieraccini, «che è un problema su cui c'è poca chiarezza, persino in sede di dottrina marxistica. Si lascia sperare che un giorno non lavoreremo più, però si dice, lo ha detto Marx, che il lavoro è una cosa naturale, eterna, un aspetto del metabolismo fra l'uomo e la natura». «E tu?» disse Amoruso. «Anche tu devi prendere posizione, se no non sei un socialista». «Perentorio». Ma Pieraccini era troppo abile per lasciarsi cogliere e le formulazioni assolute non erano di suo gusto. «Vedi, Per noi socialisti italiani il marxismo è come il canto gregoriano per i preti, cioè non è un esercizio obbligatorio. Ma a proposito di preti, bisognerà tornare verso Roma. E si alzò. Ferranini rimaneva volentieri ancora un poco e poi, sinora, non aveva trovato il momento di parlare del vestito blu. Gradì l'invito di fermarsi a cena e si rimise a sedere, mentre la bionda Adele usciva con i Pieraccini e lo studente per portarli con l'auto alla stazione. Ma in casa del compagno amoruso gli ospiti si succedevano e alle 6, quelli erano appena andati, una macchina varcò il cancello, si arrestò avvampando coi fari la vetrata. Comparve un uomo dalle spalle ben aperte, la fisionomia vivida e amara, parlante. Il bavero della giacca tirato su e gocciolava per avere percorso i 10 passi dal giardino alla porta. Buttò guanti e cappello. Un momento dopo era piazzato nella poltrona, al camino, i piedi contro la fiamma. Amoruso gli stava versando da bere. «Alberto, egregio, di dove piovi? È il caso di dirlo. Accidenti, 800 chilometri sotto il diluvio, da Taormina. Sai il premio Taormina? A Napoli mi è venuta l'idea. Formia, Amoruso, medicina e politica. Torta di frutta! Adele non c'è però». Ferranini badava a decifrare quel viso ossuto, la mandibola, l'arco sopraccigliare prominente. Dove l'aveva visto quell'uomo? Amoruso presentò il compagno Ferranini e, se occorre dirlo, Alberto Moravia. Ma a Taormina che ci facevi? Adele rientra fra un minuto. Non ne hai abbastanza di premi? Ne ho abbastanza, ma lì funziono da membro della giuria e ti pescano regolarmente. Per forza, quanti sono in Italia gli scrittori che leggono i libri degli altri? 3 o 4, forse io solo. Ah, beh, la torta di panna è assicurata. Adele rientrava e li raggiunse al camino. Le chiacchiere che seguirono diedero ancora modo a Ferranini di distrarsi e riposare, una cosa di cui gli pareva sempre di essere in credito. E sempre era grato alla gente che non si occupava di lui, che gli permetteva di tacere. «Già che sono con voi, e visto che c'è anche un tuo collega del PC, mi viene in mente questo. Nel prossimo numero di Nuovi Argomenti, la mia rivista, iniziamo una serie di interviste con uomini politici, uno per ogni partito. Interviste sul modo di intendere la propria parte politica in rapporto alla vita, al costume, alla realtà complessa del mondo di oggi. Ferranini mi fa pensare che potremmo cominciare con lui». Mi ci vorrebbe un pezzo agile, vivo, non più di 3 o 4 cartelle. Amoruso approvò subito, con entusiasmo addirittura. Perfetto, Ferranini è un comunista di prim'ordine, te lo garantisco, un proletario di razza. Tu, Antonio, aggiunse Moravia, sei certo una colonna del PC, ma ancor più che un animale politico, sei una persona colta. Per te, a parte l'ospedale, ci sono i tuoi libri e la politica è come un violino. Ora io mi rivolgo a personaggi tipicamente politici e in senso magari esclusivo, quelli della politique d'abord, come il tuo collega, direi. Ferranini intanto stava ad ascoltare. Abbiamo fatto il suo elogio, concluse Moravia. Per di più le ricordo che abbiamo avuto l'onore di pubblicare anni fa le opinioni del suo capo supremo. Che ne dice? Il pezzo dovrebbe essere pronto fra una decina di giorni. Ci penserò. Ci ripensò molto presto. La mattina dopo, alle 11, andò allo sposalizio di Assuntina col vestito blu avuto da Amoruso. Soltanto Assuntina e il suo sposo quella mattina si erano svegliati con tanta trepidazione. I Reparatore abitavano in uno di quei brutti casamenti giallastri che una volta si chiamavano ministeriali, al quinto piano. Niente ascensore. Ferranini non aveva tenuto conto di questo particolare. Come è possibile farlo andare a piedi sin lassù? Si disse mentre saliva pian piano le scale. Trovò una adunata di invitati, almeno una trentina, quasi tutti parenti, che dalla stanza da pranzo straripavano nell'ingressino, persino sul pianerottolo, e le sue speranze diminuirono ancora. Lo sposo, un veneto, era molto religioso, sicché, spiegò reparatore, prima c'era stata la cerimonia in parrocchia. Che vuoi, questa è la prassi in Italia, stavo per dire la praxis. Sarò un socialista da sagrestia e pazienza. Chi comanda qua dentro non sono mai stato io. Macchinalmente Ferranini perlustrava con gli occhi gli invitati mentre ascoltava, appoggiato allo stipite dell'uscio del corridoio. Sentiva che Maccagni non c'era. Attese sino alle 12:30, poi salutò e venne via. Alle 2 gli partiva il treno e aveva da sbrigarsi se prima voleva andare a cambiarsi e a prendere la borsa. Unica consolazione, lui e il compagno Maccagni avevano avuto la stessa idea per il regalo agli sposi, i quali avrebbero avuto modo di far musica a casa loro su ben 2 giradischi. Cercò di telefonare alla sua amica in libreria. Era fuori. Anche questo lo contrariò. Non lo sapeva Nuccia che partiva? Entrò al ristorante della stazione. A un tavolino stava finendo di mangiare la compagna Filippetto, Fanny Filippetto, deputata anziana del PC, unica donna che sedesse a Montecitorio dai tempi della Costituente. Lo chiamò con un sorriso, gli fece cenno di avvicinarsi, gli disse quasi all'orecchio: «Parti o arrivi?» «Parto, col treno di Milano». «È il mio treno, io scendo a Arezzo, mi fai compagnia, ora va a mangiare, t'aspetto qui». Come furono in treno nello scompartimento che lei aveva scelto, si fece riconoscere dal conduttore, fece attaccare alla porta il cartello con riservato, tirò le tendine dalla parte del corridoio. Sorrise ancora. «Perché mi fai quel viso?» «Sì, ti cercavo, ma non devo dirti niente di spaventoso. Rassicurati, caro». Poi, prendendo un'espressione involontariamente patetica, «Che caldo qua dentro, si soffoca!» «Ma sei chiuso la porta?» «Preferisco che resti chiusa. Posso offrirti una sigaretta, Ferranini?» «Non fumo. Buono per i tuoi polmoni. Dunque vai a coltivare il tuo collegio». Una volta si sarebbe detto così. Noi non la ricordiamo la belle époque del collegio uninominale. Toccò con volubilità graziosa 3 o 4 argomenti. Cinquantenne piacente, ma lui la conosceva poco meglio che di vista, l'onorevole Filippetto esibiva volentieri il suo sorriso, la sua eleganza autorevole. Tailleur scuro, di ottimo taglio, su cui brillava discreto, al risvolto, un distintivo in oro, insegna di un premio sovietico per la pace. All'infuori di quel minuscolo falce e martello sul petto appena matronale, tutto era, ancora una volta, dichiaratamente borghese. Un cappellino floscio, di renna, che poteva essere un modello e che buttò con disinvoltura sulla reticella. A Ferranini, guardandola, venne in mente il compagno amoroso, la tribù dei notabili che rappresentava a Roma i diritti del proletariato. Lei raccontò come avesse intrapreso la sua carriera politica a Rovigo, dove era stata direttrice didattica. Oh, vecchi ricordi. Adesso, vedova e sola, non le restava che una figliola sposata con 2 bambini. Sono nonna di 2 nipotini, vado a trovarli ad Arezzo. La sua unica grande soddisfazione. «Tutto sto preambolo», si diceva Ferranini, frustandosi la gamba con il giornale. Sino dalla mattina era depresso e insieme, lontanissimo dal rendersene conto, eccitato. Aveva sperato di dormire un po' in viaggio, ma bisognò che il treno si mettesse in moto. Allora la Filippetto si stese nel suo posto d'angolo, accese una sigaretta. «Dunque, Ferranini, prego stai calmo. Sarei venuta da te se non avessi avuto questo incontro inatteso. Debbo parlarti di una situazione che tu conosci, che tu vivi, però non ne valuti le conseguenze in rapporto alle tue responsabilità. Oh, in primo luogo, premetto questo. Il finestrino. Premetti cosa? Il finestrino lì, abbassalo, non senti che si soffoca? Premetto che attualmente ho la reggenza al partito della sezione scuola e segreteria culturale. Tu lo sapevi, suppongo. No, stai calmo. L'iniziativa del discorso che sto per farti non è mia. Ho avuto un incarico, svolgo un incarico in linea ufficiosa. Ora, chi mi ha affidato questa missione presso di te ha contato molto opportunamente sulla mia qualità di donna. Ma chi ti ha affidato? Te lo lascio immaginare, non accennavo al posto che occupo. Precisare non posso. Piuttosto bada a quanto ti dico. Ti parlo da donna. Mi si è scelta in quanto donna, perché questo poteva facilitare il contatto. Cara te, se non ti spieghi. Vengo al fatto e capacitati subito che non è una faccenda puramente tua, personale. C'è poco di personale nella vita di uno di noi che siamo alla testa del nostro partito. Sei di parere diverso? No. Ed ecco il fatto su cui tuttavia sorvolo. Una certa signora ostenta una sua relazione extraconiugale con te. Viaggia con te, ti segue nello stesso albergo, ti riceve in casa sua, sorvolo. Mi basta osservare che questo è il tipico adulterio inveterato notorio. Ti sembro severa? Eppure non è con te che vorrei esserlo. C'è chi ha ben più colpa di te. La signora è sposata. Si rifiuta di tornare accanto al marito. È il cosiddetto ménage à scandale che si sostituisce al matrimonio. Ora mi capisci, Ferranini? La valle del Tevere era già bianca. La neve seguitava a cadere densa e obliqua. Il treno rallentava. Ferranini chiuse di nuovo il vetro. Era intirizzito. Si sentiva la neve nelle ossa come se fosse buttato là, in mezzo alla campagna. Il tacco di una di quelle scarpe di camoscio batté sul basso del divano. Capisci, Ferranini? Ah, sì, adesso sì. Mi domandavi chi è che si occupa di te. Tu stai pensando a qualche commissione, addirittura alla commissione disciplina. Non siamo a questo, sta tranquillo. Il tuo caso è allo stato fluido, ma bisogna evitare che cambi aspetto. Mi spiego? Penso che anche perciò mi abbiano incaricata di intervenire per evitare l'apparenza di una procedura disciplinare, non ti pare? Ferranini annuì passivo. Adesso rispondimi, caro D. La porta si dischiuse, qualcuno posò cautamente una borsa sul sedile. Prego, non si può, intimò subito la Fanny. Non c'è un posto in tutto il treno. Mi dispiace, disse quella e tentò di richiudere la porta. L'altro, un ometto barbuto, resisteva. Sono un ingegnere a riposo delle ferrovie. Il posto è riservato ai deputati. Legga il cartello. Barba e borsa scomparvero. La Fanny tornò a sorridere. Tu non rispondi, Ferranini. E io rispetto il tuo silenzio. Considera ad ogni modo che per il mio modesto tramite ti viene un invito a riflettere. Se permetti, io aggiungo il mio consiglio. Rifletti. Ho finito. Annunciò e gli posò per un momento la mano lieve sul ginocchio. Ho finito, la mia parte ufficiosa termina qui. Ma tu ascoltami ancora, che ora ti parlo in tutt'altra maniera. Da amica, posso dirlo? Avanti. Tu vivi solo, mi dicono. Dio, Dio, che sofferenza. Come? Vengono su le vampe dal calorifero, senti. Non hai famiglia, non hai parenti né amici. Sei solo, scapolo, uno dei pochi del Parlamento italiano. Sai quanti sono i deputati celibi a Montecitorio di tutti i settori? No, 17, meno del 4%. Lo fissava maternamente ammonitrice. Sii forte, Ferranini. Guardati da certe torbide tentazioni. Preferisci le vie pure del sentimento. Sei ancora giovane. La vita può offrirti un affetto sereno, soddisfacente, rassicurante, generoso, eccetera, eccetera. Continuò a parlare mentre Ferranini non l'ascoltava più da un pezzo. E anche dopo che se ne fu andata a Arezzo, lui non fece un movimento, non cambiò posizione. Se ne stava nel suo angolo, le mani intrecciate dietro la nuca, senza un pensiero. Quando Nuccia era invitata nella camera di Walter, in vicolo del Leonetto, fatto quello che dovevano, cominciava a rovistare nei cassetti del comò. C'era bisogno di mettere ordine, diceva lei. Una di quelle volte levò una fotografia. Questo povero ritratto. L'altro giorno stava appeso sul letto, ora è qui in mezzo alla biancheria sporca. Mi vuoi spiegare? Era una vecchia fotografia della madre di Ferranini, forse l'unica che le fosse mai stata fatta. Ferranini la teneva sempre con sé, ma lui, che bestemmiatore non era, solo il necessario per non far salire la pressione, come diceva Amoruso, nei momenti di malumore gli capitava di prendersela con quella foto. Proprio un povero ritratto, che andava a finire sul tetto dell'armadio o nel mucchio dei giornali usati, salvo dopo un po' riprendere il suo posto. In fondo, era troppo poco attento a se stesso per analizzare e criticarsi quella curiosa abitudine. «Eppure sei un uomo intelligente», continuava Nuccia. «E a pensarci bene, non sei nemmeno privo di sentimenti gentili». Per Nuccia, come per altre sue simili, il gusto di rimproverare il suo amico era uno dei postumi affettuosi dell'intimità. «Te ne stai in questa camera, gelata, dove prima ci stava un prete», osservava. «Per fare un bagno devi chiedere il permesso alla padrona, andare giù dalla padrona. Ti par bello? Almeno prenditi una camera col bagno». «Ci sono più vasche da bagno a New York che in tutta l'URSS, ma l'URSS resta il paese più progredito del mondo». «Va là che il socialismo col gabinetto da bagno sarebbe anche più progressivo». Erano battute scontate, che si ripetevano regolarmente e per di più, Walter aveva notato, in lei bastava un accenno di estro polemico per tirarle i lineamenti e darle la voce stridula. Si imbruttiva subito. Ci ripensò quella mattina, mentre levava dal comò qualche biglietto da 1000 da rifornire il portafoglio. Ma insomma, pensò, questa ragazza, questa Nuccia, dopotutto sono solo 5 o 6 mesi che stiamo insieme, ossia, per essere precisi, stiamo nella stessa città. Prima la conoscevo, sì, alla lontana. Qui a Roma abbiamo cominciato a fare all'amore. Ma quella, semmai, è una ragione per stancarsi. Come va che mi torna in mente? Mi manca. Significa che le voglio bene, c'è poco da dire. E io che parlo di amicizia e storie. Alla qualità del suo affetto, in verità, non aveva ancora pensato. E quella perplessa aurora d'amore, a 45 anni, non si profilava molto più allegra della mattinata di Natale che stava calando su Roma, rabbrividita agli scrosci di pioggia e nevischio. Si era alzato tardi e si vestiva adagio, meditando, fra la stufetta elettrica accesa e la finestra che non chiudeva. Di essersi attaccato alla sua amica, un affetto se non altro disinteressato, vantaggi non ne cavava di certo, lui lo sapeva da un pezzo. Però, onesti sino in fondo, bisognava capire e farglielo capire che non era passione. Il tempo è finito, non era una cosa da ragazzi giovani, sentimentale. Perdere Nuccia non voleva, lasciarla nell'equivoco con le possibili conseguenze, per lei neppure. Intellettuale, mica più giovane, ma come tutte le donne. Le piaceva stendere il rosa o il blu di modugno sul grigio quotidiano. E la Filippetto? Uno stiramento fra stomaco e gola, il rigurgito acido della cena mal digerita. E qualche altra cosa di organico e amaro che risaliva a farsi cosciente. Già, la Filippetto. Cesare Lonati. E lui stava a darsi pensiero, bestia che era. Se ne incaricavano quelli là di risolvere il problema. In pratica, loro due erano già lontani, divisi, senza rimedio. Si sedette sul letto, si guardò intorno. Siamo messi bene. Siamo messi bene. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.